Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Questa trasmissione prende il nome da uno dei più importanti macro processi di innovazione della nostra epoca. Ma in ultima analisi ciò che chiamiamo Smart City non è una città con un nuovo hardware, bensì con un nuovo software, cioè nuovi servizi e nuove opportunità. Le moderne infrastrutture, prima fra tutte la rete, sono importanti, ma solo in quanto abilitano la nascita di nuovi servizi, e sono questi nuovi servizi che vogliamo intelligenti. Ebbene, è di nuovi servizi che ci occuperemo questa sera e domani sera, nuovi servizi che però nascono sotto un segno comune, quello della cosiddetta sharing economy, quindi economia condivisa, che mirano a rispondere ai nuovi bisogni dei giovani, degli anziani e delle famiglie, che anche loro sono cambiati in termini di profilo rispetto a solo pochi anni fa. Ne parliamo con Anna Meroni, che è professore di design dei servizi al Politecnico di Milano e appunto esperta di innovazione sociale. Buonasera Meroni. Buonasera. Senta, allora io partirei proprio dal ruolo dei designer nella progettazione di questi nuovi servizi. Designer che invece siamo abituati a pensare come progettatori di forme. Sì, ma diciamo che da una ventina di anni a questa parte ci siamo accorti che non risolviamo quello che ci serve nella nostra vita soltanto con gli oggetti, ma che troviamo delle soluzioni anche molto più interessanti nei servizi, quindi nel modo di interagire con il resto del mondo. E quindi diciamo soprattutto poi con l'avvento delle tecnologie della comunicazione i servizi sono diventati una parte fondamentale della nostra vita. Anche l'economia ormai è molto più basata sui servizi, no? Che... Quindi diciamo che sono oramai veramente 20-25 anni che i designer stanno anche guardando a questo mondo ed è molto molto interessante. Ecco, come mai i designer diciamo sono un profilo giusto per fare questo lavoro? Perché è una cosa che sta anche emergendo, direi. Sono un profilo giusto perché un designer deve pensare con la testa di un utente, deve pensare con la testa della persona che poi userà un oggetto o un artefatto, quindi pensa agli oggetti ma pensa anche ai servizi, quindi un designer è capace di capire cosa serve a una persona per star bene, cosa può usare, come può usarlo, che qualità. Senta, una categoria che ha subito una specie di mutamento antropologico negli ultimi anni è quella degli anziani, e appunto attorno a questo mutamento stanno nascendo nuovi servizi, forme di economia cooperativa che mirano anzitutto a non disperdere le capacità, le competenze di questi che poi tanto anziani non sono neanche più, perché un sessantenne, un settantenne di oggi è in condizioni anche fisiche e mentali diverse. Ecco, ci fa qualche esempio di quello che sta nascendo intorno a tutto questo? Beh, sta nascendo moltissimo proprio anche nel rispetto di certe capacità di fare che gli anziani hanno, e attenzione che fra poco questi anziani siamo noi. Sì, infatti. I cosiddetti giovani stanno un po' perdendo, ad esempio l'artigianato, un servizio che trovo molto divertente che è realizzato in Gran Bretagna, per esempio ha creato una rete di nonne che sferruzzano su richiesta, quindi è un sito internet che aiuta le persone a progettarsi i propri maglioni, cappelli, sciarpe, chiedendo poi a queste nonne di realizzarlo. Diciamo che vengono usate come stampanti 3D biologiche queste nonne, perché esatto, sembra... stampanti 3D biologiche che però sono anche simpatiche, con le quali si stabiliscono delle relazioni, con le quali si parla, e questo poi è il vero valore. Certo, certo. Ecco, qualche altro esempio. Allora, se ci spostiamo un po' diciamo dall'hardware al software, sono sempre di più le situazioni in cui si cerca di creare delle reti attraverso i servizi, delle reti di persone che si autoaiutano, cercando quindi di prepararsi anche ad andare incontro alla propria vecchiaia, avendo poi una rete di supporto che non è solo quella dei familiari. Ma che è fatta dai vicini di casa, dagli amici, da chiunque possa darci una mano a svolgere delle attività. Ecco, ma c'è come una specie di moneta di scambio però in questi casi, no? Che altrimenti diventa famo se un favore. Non è più famo se un favore. Diciamo che il valore del design dei servizi è proprio tradurre questo in qualcosa che funziona meglio grazie a qualche artificio. Per esempio in Giappone oramai sono più di 20 anni che è stata inventata una specie di moneta complementare che si chiama Furekipu, non so se il mio giapponese sia perfetto, che è proprio un mezzo che permette a me di aiutare per esempio una persona anziana che ho vicino e intascare un credito, sì, che posso poi cedere ai miei genitori, a mia mamma o chi altro per ricevere a sua volta un aiuto magari dall'altra parte del paese. E questa moneta oggi va a costituire un conto proprio che una banca conserva. Quindi quasi un'economia, quindi è una moneta e un'economia parallele per certi versi, no? Assolutamente così, ed è molto interessante perché non è un modo per frodare il fisco, ma invece è un modo per creare un valore sociale attorno al fatto di scambiarsi dei favori, ma anche, se vogliamo, con un po' più di impegno che non si farebbe semplicemente nelle reti informali, ecco. Va bene Meroni, ci dobbiamo fermare qui per intanto, grazie, ma torneremo nelle prossime settimane a risentirci su questi argomenti. Grazie a lei. Buona serata, vi lascio Affetto a Notte.